chi siete voi? Cosa facciamo qui? Ti sento ridere, mi accendo un sigaro tra i rossi petali della tua Africa. E mi sembra essere qui, ma non mi sembra essere qui. You're back from the moon.